anno fa, era il 19 di marzo 2007, quindi non era l'anno della svolta, era il 2007. A quest'ora del mattino, sulle frequenze radiofoniche di Rock FM, il povero Ariele, che fino allora si faceva il pomeriggio bello tranquillo, no? E si svegliava a mezzogiorno, arrivava in radio per le 3 meno 5 e se ne andava via verso le 5 e 5, accettava l'impegno di condurre il morning show della mattina. Si sarebbe chiamato Pane, Burro e Rock and Roll. L'ho fatto solo perché sapevo che avrei potuto lavorare con Freak, lo dico. Buon anno, PBR! Buon anno! Un anno di vita della vostra colazione rock. Pane, burro e rock and roll. È il nostro compleanno. Oh. La tua colazione rock. Anche vostro, ovviamente. Pane, burro e rock and roll. C'è qualcuno là fuori che aveva sentito anche la prima puntata? O forse no? Tutta! Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Quindi ci prepariamo a vivere quest'oggi, nella puntata 207, il primo anno di vita di Pane, Burro e Rock and Roll. Sarà una giornata strana, ve lo devo confessare da subito. Sono curioso di sentire quanti di voi erano all'ascolto già della prima puntata. Sono certo, visto i feedback, i contatti di questi 365 giorni vissuti insieme, che in molti poi sono gli amici e le amiche che si sono aggiunti nella colazione più rock d'Italia. Con quest'oggi in realtà segniamo l'inizio di una nuova fase di questa trasmissione radiofonica, che richiederà per noi, al di qua del microfono, un impegno maggiore, ma essendo dei fottuti professionisti mi sento di garantirvi che ce la faremo. Non mi sbottono ancora, ma insomma, prossimamente news per quanto riguarda PBR. Sapete che qua ci piace alzare la tensione, no? Piace sparare altezza uomo. 335-100-7777 oppure ariel@radiorockfm.com. Quest'oggi avremmo deciso, per festeggiare il nostro compleanno, di iniziare così. E quasi quasi di cantarcela tutta. Is this just fantasy? Calling your life's night. A Morgan, guarda come la canto io. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, no need to fear, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Ovviamente dovete cantare anche voi, sennò non ha senso. Non vuol dire proprio nulla. Mama just killed a man. Anche tu, Spadino. My trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I've gone and thrown it all away. All together, Mama. Ooh, didn't mean to make you cry. It's a Qualcuno starà pensando, ma questo è così scemo che la canta tutta? aspetta, senti qua. Vuol dire che non ci conosce. Too late, my time is gone. Sent shivers down my spine, body's thinking all the time. Goodbye, everybody. C'è amarezza. Segnatevi questa data, 19 marzo 2008, l'anno della svolta. La svolta è contro il muro, però. Forza, concentrati voi sulle autovetture, mi raccomando. Vadino, fai l'altra voce. Scaramouche, scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico! Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no! Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Commuove sempre un po' me sta canzone. Scusate se ve l'ho rovinata, ma è la mia festa oggi. Oh yeah. Na, na, na, na. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Ah. In culo X Factor, eh? Senti che voce. Anyway the wind blows. Che i Queen mi diano la forza di proseguire. I walk 47 miles of barbed wire. I got a cobra stick for a necktie. A brand new house along the roadside, and it's made out of rattlesnake hide. Got a brand new tin that baby built on top, and it's made out of human skull. Come on, take a little walk with me, baby, and tell me who do you love. Rattlesnake whip, take it easy, baby, don't you give me no lip. Who do you love? Who do you love? I got a tombstone and a graveyard mine. I'm just 22 and I don't mind dying. Who do you love? We'll be right back. sky was blue. Down the aisle where I swayed through. Hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Graveyard man, just 22, baby, I don't mind dying. Snakeskin shoes, baby, put them on your feet. Got the good time music with the boat in the beat. On top, and there's a man out of human skull. Come on, take a little walk with the child. Tell me who do you love? Tanti auguri a te, a noi, tanti auguri a noi, tanti auguri, fare pure rock and roll, tanti auguri a te. 365 Viva! Giorni fa Isaac Rizzi non c'era nemmeno, era un embrione da qualche esatto, parte. Esatto, esatto. Fricantoni c'era, Spadino c'era. E nasceva sì. Pane, burro e rock and roll. Un anno è passato. Un anno fantastico. Un anno meraviglioso. Un anno scoppiettante. Esatto, che noi ricordiamo oggi. 19 marzo, sì. Famoso anche questo 19 marzo. Perché? Per la festa del papà. Pensavo dicesse del papa, che mi avrebbe fatto ridere papa. Tantissimo. E invece ci siamo bruciati la battuta. Vuole rifarlo? No, queste battute le fa solo Mike, eh? Oggi 19 marzo è la festa del papa. Ecco, va bene. Andiamo con l'almanacco, poi del compleanno di pane, burro e rock and roll ce ne occuperemo nel corso della puntata. 1957, nei dintorni di Memphis, sì. Nel quartiere di White Heaven, il paradiso bianco. Sì. Chissà se l'ha scelto anche per quello. Elvis Presley acquista quella che diventerà la sua prima residenza e, dopo la sua morte, il suo museo, ovvero Graceland. Graceland, questa grande, enorme fattoria, se ricordo bene. Una reggia. Una reggia che aveva questi cancelli con le note musicali, sempre se ricordo bene, sì. E comunque gigantesca, enorme. Chi se lo poteva permettere? Se non Elvis, il mitico Pelvis. Abbiamo due curiose notizie musicali legate al 19 di marzo. Era il 59 quando la Cadence Records pubblica Rumble, brano strumentale pionieristico di un certo Link Wray, che segnaliamo per il cattivo funzionamento dell'amplificatore, inventò fortuitamente la distorsione del suono della chitarra. Sappiate che la distorsione che fa il suono rock alla chitarra nacque nel 59. Per un caso. Per un caso. Vedete, a volte le invenzioni più straordinarie nascono da un incidente, da un inciampo, forse anche da una banalità. Ma si lasci servire. Dica. Le dirò, continuando l'almanacco, che nel 1970 sì. la famosa celeberrima rivista Rolling Stone sì. svela che il test iniziale di Come Together Right Now di Lennon McCartney, Over Beatles, me. Over Me, ricalca le parole di You Can't Catch Me di capito. Chuck Berry, quindi tiratina d'orecchie a Lennon e McCartney, che ogni tanto me la scopiazzava. Ma sì, forse gli era rimasta nelle orecchie, nella testa, nella memoria, e gli è venuta fuori così. Capita, sa, le note sono 7. Però vinco io, perché le lettere dell'alfabeto sono 24. Quindi 7 24 per 4? 7. 24 a 7. Vinco, vinco, vinco. Non piangere. Vinco, vinco io. It's not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me wanna give. I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim. But I'm easy, yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game, as though that's how it ought to be. Because I'm easy. Don't lead me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometime thing. I can't put bars on my inside. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I tried. But I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight. Cause I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance. Cause when you're near I find it hard to keep my head. When your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind. Make me leave my cautious words and ways behind. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy. Say you want me, I'll come running without taking time to think. Because I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight. Because I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game, as though that's how it ought to be. Cause I'm easy. I'm easy, Keith Carradine. Abbiamo accettato anche quest'oggi la sfida di affrontare un'altra giornata e vedremo di farcela insieme fino alle 9 del mattino con pane, burro e rock and roll. Qui c'è l'Ariele e Mister Trombetta. Io ho un sacco di cose da raccontarvi, ragazzi. Sappiate che da qui alle prossime giornate vi devo fare un po' di confessioni, che ho paura che qualcuno ci rimarrà anche male, eh? Perché pane, burro e rock and roll è un carrozzone che abbiamo tirato su nella finzione radiofonica, quindi un po' di cose che vi abbiamo raccontato in un certo senso, a volte non sono come sembrano. Quindi da qui alle prossime puntate Dovrò dire un po' di cosette che non ho mai detto. Secondo me qualcuno ci rimane male. Io metto le mani avanti, lo abbiamo fatto per il piacere dell'entertainment, ok? Mentre una badilata di bei messaggi che arrivano così alle prime luci della giornata e fa sempre molto piacere, siete voi la spina dorsale di questo programma radiofonico che pensavo quando nasceva un anno fa. Sì, sicuramente era già incentrato sull'interazione, ma mai avrei sperato di riuscire a resuscitare le care vecchie telefonate che mi mancavano parecchio. Arrivavo prima di Rock FM da una Radio Lupo Solitario dove mi sono divertito per parecchi anni a mandare in onda radioascoltatori e radioascoltatrici. Una delle sorprese che mi ha regalato Pane, Burro e Rock and Roll in quest'anno è stata la possibilità di ributtarvi in diretta. E ho serie intenzioni di farlo anche per le prossime giornate. Adesso vediamo di inventarci qualcosa con la redazione. Sì. Saluto però Andrea, il primo, che già da ieri mi manda una mail, un anno, quindi il primo, perché l'ha spedita ieri sera. Un anno fa veniva alla luce il programma di culto della mattina radiofonica e sembra ieri che si scommetteva sul fatto che l'Ariele non si sarebbe mai alzato così presto la mattina, invece ha dimostrato di essere un vero rocker. Caro Andre, sono un fottuto professionista, ricordatelo. Casualmente un anno fa ho iniziato a lavorare e proprio oggi cambio lavoro, i segni della vita. Tanti auguri alla famiglia di PBR. Noi ti strombazziamo per il nuovo lavoro. Da Andrea da Genova, gruppo d'ascolto di quelli che si registrano Pane, Burro, Rock and Roll con la cassetta musicale da 120 minuti e vi ascolta durante la giornata. Sei veramente un numero uno. Allora, vediamo come stiamo a tempo. Io ho una domanda da farvi, una domanda alla quale non c'è bisogno che voi mi rispondiate subito, potete pensarci per un po', però ve la butto lì, voglio buttare questo semino e nelle prossime puntate, se non già da oggi, sono curioso di sentire soprattutto quelli che si sono sempre un po' vergognati di contattare Pane, Burro e Rock and Roll. Io voglio sentire tutti. Io voglio mandare in diretta a tutti quanti e mi piacerebbe sapere, ma perché vi piace Rock FM? Perché ascoltate Rock FM e non un'altra stazione radiofonica? Mi fate il fioretto di pensarci in questi giorni? Poi me lo dite con calma. Turned up.